Allora, questa mattina, che è, mi sembra il 16 giugno, penso che siamo giunti al punto di svolta dentro Aleph, quello che attendevo da tanti anni. Abbiamo raggiunto la massa critica di collaborazioni e di persone affidabili, per cui possiamo finalmente aprirci a quel mondo che io desideravo venisse spalancato agli occhi di più persone possibili. Posso dire in questo momento che sento che stiamo aprendo finalmente Aleph come libera università delle idee. Ora, Aleph fino ad oggi è stata vissuta da maggioranza dei soci come un luogo dove si va a fare PNL, si va a fare PNL umanistica, dove magari si ricorre nei corsi, si va ai corsi anche perché si hanno i problemi personali da risolvere e si è centrati sulle proprie problematiche. Ma credo che fino adesso pochi soci hanno compreso a fondo che cos'è Aleph. E naturalmente non hanno compreso perché non gliel'abbiamo spiegato. Noi facciamo effettivamente dei corsi di PNL umanistica, ma ciò che c'è dietro è tutt'altro, è un'altra cosa più grande. Il progetto originario non è creare una scuola di PNL, ma di creare una scuola in cui le idee potessero essere confrontate in modo da potessero sciogliersi e lasciare andare quelle idee, quelle convinzioni che sono tossiche, dannose, che si è scoperto che sono dannose alla salute come il mercurio o il protossido d'azoto. Ecco. Per cui le persone, è chiaro che si ammalano per messaggi ricevuti in famiglia, ma si ammalano soprattutto perché vivono in contesti dismorfici guidati da presupposti che sono protossido d'azoto, mercurio e altre inquinanti di questo tipo. Allora, in questo senso, cosa intendo per svolta? Intendo che alcuni soci, io spero la maggioranza, magari anche solo il 20%, non lo so, 30%, verranno coinvolti in un progetto che è una vera e propria università. Università in cui alla fine ci sarà anche un titolo, laurea in libera università delle idee. Questo, per chi si aspetta procedure burocratiche, rimarrà pienamente deluso, perché qui andiamo prima delle procedure burocratiche, cioè quando nella conoscenza si utilizzavano sistemi molto semplici, del tipo di andare a bottega da qualcuno che sapeva fare le cose e senza nessun certificato, senza nessuna notificazione e iscrizione, si stava lì finché si aveva appreso un mestiere. Da procedure di apprendimento come quella sono nate persone come Leonardo da Vinci, Raffaello, insomma, sembra persone di un certo livello che oggi dall'università credo escano assai raramente, nonostante che persone all'università siano tante a frequentare. Quindi probabilmente quello che vorremmo fare in Aleph è recuperare quel modo di trasmissione del sapere, di creazione del sapere, che è andato perduto nella società massificata, in cui ormai una facoltà di psicologia ha 5.000 iscritti, 6.000 iscritti e si fa il test d'ingresso, ma anche gli esami sono fatti attraverso test. Quindi la psiche, che è il contatto tra anime, ma dove sta? Ecco. Allora è chiaro che l'università fa quello che può, non è il mio compito occuparmi in questo momento di questo grande tema. Noi però, siccome siamo liberi, non ci dipendiamo da nessuno, possiamo fare quello che ci pare, per il momento almeno. Vorremmo creare un luogo dove le persone provino entusiasmo nello studiare, nell'apprendere e facciano quello solo perché gli dà un'enorme gioia. E io sono convinto, assolutamente certo, che gli esseri umani, nel loro fondo, hanno bisogno di apprendere. È un bisogno altrettanto forte del fare l'amore, dell'esplorare il mondo, apprendere. Perché l'apprendere, allora c'è un aumento della consapevolezza, chiaramente se è tale e non se è burocrazia, genera gioia. Lo genera nei bambini, è evidentissimo. I bambini, primo anno di vita, secondo anno di vita, quando scoprono qualcosa sono entusiasti. E i bambini ci piacciono perché hanno quegli occhi lì, poi vanno a scuola. E guardate un bambino cosa gli succede dopo che ha frequentato la scuola 3-4 anni, a volte anche prima, naturalmente, gli occhi non sono più quelli. Ecco, non sono più quelli perché ha dovuto sforzarsi a prendere cose a cui non interessavano per nulla, in modalità che non gli interessavano, però bisogna farlo per stare in una società. Ma questa società è creata dall'uomo, non è imposta da un Dio fuori dall'umanità, siamo noi ad averla creata e se non ci va bene, compete a noi cambiarla. Possiamo farlo non partendo ovviamente dalla scuola pubblica o dalla scuola perché è impossibile, possiamo lì mettere qualche seme, ma niente di più. Invece possiamo cambiare il nostro modo di approcciarci al piacere della scoperta, dell'apprendimento. Oggi internet ci consente questo, oggi abbiamo dei mezzi che una volta erano impensabili, parlavo recente convegno con Carlosini, parlavo di meravigliose persone, giovani che abbiamo intorno e di come sono svegli e acuti. E lui mi dice, Carlosini, che adesso è stato professore per tanti anni alla Cattolica di Milano, professore di filosofia, e quindi ha visto, penso, centinaia di migliaia di studenti, e ha detto sì, quelli veramente bravi sono migliori di come eravamo noi, hanno più mezzi. Poi il resto è un abisso, perché purtroppo il mondo in cui viviamo premia tutto tranne che la cultura, la sensibilità, la dedizione, no, premia tutt'altro. Va bene, allora noi vorremmo che in Aleph si comprendesse questo, che una società sana non può esistere se non c'è un modo sano di apprendere e di formarsi una cultura. Se non riusciamo a generare nei giovani e in più persone possibili, anche non più giovani, ma poi tutte le persone possono essere giovani anche a 90 anni. Se generiamo questa nuova possibilità di riprendere il cammino perduto quando magari avevamo 3-4 anni, come è successo a me, io ho perso il piacere di conoscere una volta che sono entrato in quelle scuole lì, ho perso proprio tutto, e da abile come ero prima, cioè capace di essere felice mentre apprendevo, sono diventato un disabile dell'apprendimento, cioè qualcuno che per imparare qualcosa faceva una fatica. Ecco, se riusciamo a portare questo messaggio dentro i nostri soci, cioè persone che vengono da noi, hanno scelto, e io credo che lo possiamo fare, quindi è un periodo ipotetico della possibilità, sì, lo possiamo fare. Se facciamo questo, vedremo dentro Aleph una trasformazione fantastica. Perché fino adesso in Aleph c'è un sangha ristretto di persone con cui ci vediamo piuttosto spesso, queste persone però non sono molto di più di una. Alcune proprio più vicine, 3, 4, 5, poi un sangha un po' più allargato, una decina, poi ancora un po' più allargato, un quindicina, una ventina, ma non molti di più. Bene, adesso noi possiamo però fare in modo che ci siano molti più soci che creano un sangha ancora più largo, probabilmente un 60, 70, i quali fanno questo passaggio e sono coinvolti in modo attivo nella ricerca Aleph, nonostante che abitino più o meno in media 1500 km a casa nostra, per cui questo non rende le cose facili, ovviamente. Però c'è internet, ci sono i mezzi. E allora adesso scendo nel Chunkdown. Allora, sul sito Aleph mio ci sono moltissimi audio e moltissimi video. Il vantaggio di un audio, di un video, è questo, che anche se uno è stanco lo può vedere. E magari è meno faticoso che leggere. Il problema è che poi recuperare quello che hai ascoltato o quello che hai visto, non è così facile. Io un libro posso sottolineare, posso metterci dei segni e quindi lo ritrovo. Su un audio, su un video, questo non è possibile. Allora, gli audio in qualche modo devono essere tradotti in scritti. In scritti, innanzitutto un abstract, come già hai fatto tu, Barbara, che ne hai già fatti parecchi, un abstract che mi dica per linee essenziali cosa c'è dentro quell'audio. E aggiungo, rispetto a quello che è già stato fatto, con i minuti precisi in cui c'è un contenuto, in modo che se io so che ho parlato di sesso e potere, vado a cercare quell'audio che magari dura un quarto d'ora, però vado al minuto 7,13 secondi, clicco lì e mi parla di sesso e potere, quindi ho la stessa facilità di accesso all'informazione di un libro. Questo vale sia per gli audio che per i video. Allora, dentro il nostro sito ci sono centinaia ormai di audio e la prolificazione e prolificano sempre di più. Ci sono giorni che ne produciamo anche 3-4 di audio e giorni di 3-4 film, quindi una cosa in crescita. Questo materiale finisce, rischia di finire in un magazzino e quindi poi di essere introvabile. Bisogna quindi trovare un sistema che aiuta Aleph, noi come staff centrale, a mantenere ordine e nello stesso tempo aiuta le persone che seguono Aleph a diventare competenti nella ricerca. Allora, questa è cosa che le persone potranno prendere un audio, se lo ascoltano, fanno una sintesi, un abstract con i minuti, è a portata di tutti. Due, passaggio successivo sarà fare una sintesi, non più così ristretta come un abstract, ma un articolo vero e proprio. Se quando io parlo, per esempio, faccio un esempio dell'audio, del video, l'ultimo messo in questi giorni in Arcoiris, Psicopatologia del potere quotidiano, dura un'ora. E lì dentro c'è un universo. Per poter mettere per iscritto questo video qui richiede dei giorni. Io stesso, se mi dovessi mettere a fare, insomma, è un bel impegno, ci vorrebbe parecchi giorni per farlo. Bene, però a me fare questo lavoro non darebbe più niente, perché queste cose conosco e ripetere cose che no, mi sono note non mi servono. Ma ci sono persone che le devono digerire e non c'è modo migliore di digerire una cosa, di apprenderla, che essere attivi, cioè farla. Allora, è come se uno andasse a una lezione, la lezione c'è la fortuna di averla, per poterla riascoltare, rivedere, e su quella fa una sintesi. Questa sintesi deve essere tipo una tesina universitaria, cioè qualcosa che si fa leggere a un docente per passare un esame o una laurea. Ecco, se viene fatta con questo spirito, quindi con la massima impegno e non come cosa che uno fa tanto per fare, ma proprio come, allora la persona che fa questo fa una crescita notevole culturale. Mentre fa psicopatologia del potere quotidiano, io avrò detto mettiamo 50 cose importanti, ma la persona che sente questo video gliene viene in mente la 51esima, la 53esima, vuole collegare, naturalmente è libero di farlo. Quindi dovrà solamente dire quello che è roba sua, distinguerla da quella che ho detto io. Io di quella mi prendo la responsabilità, di quello che dice lui, no. Ecco, come da corretta e normale prassi accademica. Allora, le persone che faranno queste, faranno delle buone tesine di questo tipo, questa verrà pubblicata nel sito. Le persone che faranno più tesine e quindi dimostreranno una capacità, verranno seguiti. Ecco, quindi adesso così a ruota libera, adesso ne abbiamo manco parlato, ma Gianluca, probabilmente Gianluca Minella è la persona più adatta a seguire il percorso, a vedere queste persone, poi ne parliamo, vediamo se è d'accordo. È chiaramente che allora si crea un settore che pare tipico universitario, in cui qualcuno manda al docente una tesi, una tesina, l'altro la legge, vede se è tutto ok, se è ok la pubblica. Chi pubblica 1, 2, 3, 4, 5, 10 tesine a un certo punto ha una massa critica tale che addirittura può scrivere un libro a nome suo, se vuole, naturalmente citando le fonti, facendo i collegamenti, creando degli audio, tutto quello che gli serve. Dicevo che le persone appunto che hanno fatto un numero critico sufficiente di tesine, che quindi hanno mostrato questo, poi chiaramente possono, come dire, prepararsi per fare una vera e propria tesi, cioè discutere come fosse una sessione di laurea e ricevere proprio un titolo dalla Libera Università delle Idee Aleph. Quindi non ci saranno più solo practitioner, master, counselor, trainer, ma ci saranno laureati dalla Libera Università Aleph, riconosciuti da questa associazione. E queste persone naturalmente saranno le persone più adatte a fare cosa? A fare conferenze in giro, e potremo mandarle anche in platee di 100 persone e a loro affideremo i materiali più adatti, i video, gli audio che gli servono per fare conferenze efficaci. Questo è già stato, siccome Gianluca Minella ha già fatto questo, e vuol dire se una persona sa fare qualcosa al mondo si può insegnare a tutti gli altri a fare uguale. Lui autonomamente, senza che lui dicessi niente, ha già trovato tutte le soluzioni, quindi è chiaramente un uomo attivo, creativo, pieno di intelligenza e di dedizione, e quindi lui ha trovato la strada. Ma sono sicuro che il modellamento non è una stupidaggine. Il modellamento è possibile, se Gianluca è riuscito a fare questo, ci possono riuscire molti altri, cioè coloro che lo vogliono fare. E questo aprirà ad Aleph una nuova prospettiva. In futuro cosa apriremo? Dentro il sito un elenco di queste persone nel corso di laurea in Aleph, nella Libera Università delle Idee, a che livello sono, quante tesine hanno fatto, le tesine dove si trovano, e ognuna si può accedere direttamente a queste tesine. Quindi c'è il riconoscimento passo a passo di ciò che ognuno ha fatto nel suo parte di sito. Inoltre queste tesine saranno presenti nel sito vero e proprio, o nelle pagine o nei PDF allegati. Questo non deve essere un aggravio per l'Aleph centrale, perché quello che vogliamo fare non è una struttura burocratica, deve essere una struttura come è il sistema immunitario, che è una struttura elastica a rete in cui ogni persona diventa veramente leader del processo una volta che ha capito le cose. Se diventa leader del processo non è più un peso burocratico cui dobbiamo badare, ma è una persona autopoietica, auto-organizzata, che diventa sempre più intelligente, che chiede le cose essenziali e non diventa un carico per nessuno. Anzi, chi fa così deve essere un aiuto per Aleph, non un peso. Ecco, con questo vi saluto tutti, perché questa è di nuovo una riunione di quelle che, come abbiamo fatto l'8 marzo, il 25 aprile, in realtà non abbiamo registrato, ma è stata la più grande rivoluzione di Aleph. o forse l'abbiamo registrata, forse sì, questa è del 15 giugno, sono 16. Ah, già 16, vabbè, sono 14 giorni dalla festa Repubblica, 2 giugno, ecco, questo è. Oggi tra l'altro piove, ma che ci vuoi fare? Qui dentro invece c'è molto sole, ecco, in questa casa io ci vedo una grande luminosità, vedo la luminosità nei vostri visi, nel vostro entusiasmo, e io, come ho detto, il 25 aprile ho fatto un giuramento da cui mi atterrò fino alla morte, che io frequenterò soltanto, ma soltanto persone entusiaste. Il che non significa che una persona deve essere sempre entusiasta, cioè piena di carica vitale, ma se vuol stare vicino a me, sì. Quindi, se no, io mi allontanerò un po' più in là, tanto le persone cambiano, vado in un'altra stanza, quando sarà di nuovo bella serena, sarà vicino a me. E in questo modo vorrei dare un esempio, vorrei dare l'esempio che noi possiamo vivere l'entusiasmo. Non è vera la balla colossale che ci vogliono raccontare nel mondo esterno, che dobbiamo vivere di sofferenza, di aspettare che la vita passi, così finalmente siamo seppelliti e andiamo in pace. Ecco, questa è una truffa che il potere, il dominio è riuscito a convincere l'umanità. Ci vuole una rivoluzione. Una rivoluzione silenziosa, come la moltitudine inarrestabile, come dice un libro, e noi facciamo parte di questa meravigliosa moltitudine inarrestabile. Dunque, tu, Barbara, stavi dicendo che questa idea ti piace molto perché finalmente dà delle possibilità alle persone. Tu che sei in contatto con Sì, i soci, più di me, mi piace per tanti motivi. Uno sicuramente è quello che veramente dà la possibilità a tante persone con cui io parlo, che sento, che so che vorrebbero proprio fare questa cosa qua, essere più presenti, avere la possibilità di stare con te, di modellare, di capire meglio le cose, di imparare davvero. Però non sanno proprio come fare. Tanti mi dicono, sarebbe bello, cavolo, sei fortunata che stai lì con Mauro, che fai questa cosa. E quindi adesso c'è la possibilità di dare a loro appunto questa possibilità, che è una cosa che hanno sempre voluto fare. E quindi, come dire, diamo qualcosa a loro. E finalmente viene qualcosa anche a te, che quello che hai sempre voluto era proprio che tutto quello che tu fai, una delle cose principali, il tuo sito, non fosse più la voce di una sola persona che si sta facendo un culo così, ma fosse veramente una voce corale di tutte le persone che ci sono davvero, ci sono già in Aleph, che però non sanno come poterlo fare. Esatto, è proprio Ed è così. proprio molto bello, cioè per me che ho l'occasione di parlare con le persone, è bello sentire, diciamo, le tue parole attraverso di loro, perché mi capita spesso. Questo secondo me, cioè, mi piacerebbe che potessi sentirlo anche tu Sì, una volta è certo, tanto. accidente, proprio sì, perché come sai, partendo dagli insegnamenti di Porena, di Boris e di Paola, insomma, in Aleph crediamo che l'intelligenza non è un fatto personale, è un fatto collettivo. Il pensiero, il linguaggio non è un fatto personale, è un fatto collettivo. E se vogliamo cambiare qualcosa, collettivamente credo si cambia. Di persone brave, singole, c'è pieno il mondo. Quello di cui abbiamo bisogno è di un gruppo che sia veramente, abbiamo sempre detto, la spiritualità cosa aspetta l'umanità? Il salto di spiritualità significa che anziché essere separati, ognuno per conto suo, riusciamo a creare delle menti di gruppo, menti di gruppo molto più intelligenti della mente individuale, abbiamo detto infinite volte. E questo in Aleph adesso c'è la massa critica di lavoro alle spalle e di esperienze, e tu che contatti più, infinitamente di più hai il contatto con i soci, se mi dai questa conferma che adesso è il momento di poterlo fare. Va bene. Sì. Mi stavi dicendo, Barbara, che tu sei in contatto con parecchi soci che fanno delle cose di cui io non vengo a Lo sapere sai che nulla, sì. no? Quindi, per esempio, mi parlavi di Elena. Di Elena, che nonostante la sua giovane età è riuscita a fare una cosa molto bella. Lei è regista, è cantante, attrice, un sacco di cose, e ha creato proprio dal niente come materiale uno spettacolo meraviglioso. In cui ha messo moltissimo di quello che lei ha imparato in No. Aleph, da te. Lei poi è una che legge sempre il tuo sito, guarda tutti i video, quindi alcune cose proprio. Lei poi è una modellatrice, perché Sì. nel suo Sì. essere. E proprio l'ha intitolato addirittura La piramide rovesciata, Esatto. che era una cosa, che un argomento di cui tu avevi parlato durante un Molto seminario. ragione. E l'ha collegato, siccome questo spettacolo riguarda la storia di un uomo che è stato in campo di concentramento, e tu sai che loro avevano dei triangoli sulle tute, e ha legato questa cosa qua a tutto il ragionamento del fatto di, nella piramide rovesciata, di da che parte sta il potere, queste cose qua. Ha fatto veramente uno spettacolo di un'intensità incredibile, che a me ha commosso tantissimo. In parte perché sono sua amica, a me proprio mi cioè vedere una ragazza così giovane che è in grado di fare una cosa del genere, dico mamma mia, c'è cioè veramente del buono profondo in questo mondo. E poi veramente mi piacerebbe che tu potessi vedere perché era proprio una proprio l'espressione di tutte le cose che tu dici. Lei le ha capite, le ha incamerate, le ha ritirate fuori con le sue modalità, col suo modo. È proprio, guarda, è meraviglioso. Vedere questo è quello che poi porta l'energia dentro il cuore di Aleph, Sì. no? Perché, come dire, è come se qui il cuore pompasse a volte il sangue arterioso, ma il sangue venoso non torna. Cioè, a me è capitato molto spesso di dover creare una banca del sangue perché non ce n'era più, perché qui ne esce e ne torna una quantità, per le ragioni che abbiamo analizzato tante volte, una quantità minima. Quindi il cuore deve poi fondarsi sulle proprie forze. Io credo che questo periodo è finito, credo che oggi stiamo compiendo la più grossa rivoluzione dall'inizio di Aleph. Finalmente sta diventando Aleph, grazie appunto al contributo di persone come Elena, come voi, ecco che veramente, ecco. E voglio citare altri casi che ho visto così, vedo Carlo Virzi, per dire una, io ho visto nel suo lavoro un'espressione assolutamente perfetta di quello che è il pensiero Aleph rivolto ai bambini. Perfetto, c'è cioè proprio i simboli, tutto, con quella modalità, cioè lì c'è la logica. Quando una persona vedo che ha compreso la logica, poi diventa creativo. È come se io capisco come è fatta l'armonia e come funziona il contrappunto, dopo posso comporre, finché invece non lo so, non mi rimane che imitare, oppure fare delle stupidaggini. Ecco. Un'altra cosa che a me ha toccato tantissimo è il lavoro sull'Ubuntu. È stato fantastico, tutte le persone che l'ho fatto vedere si sono commosse, sono rimaste colpite. Il lavoro di Ubuntu nella scuola corrisponde al pensiero Aleph ed è una cosa magnifica. Ecco, allora lì io mi sono visto come una grande vena sanguinosa che torna indietro. Ecco. Benissimo, con questo Anche l'Antonella Sbolci sta facendo tutti i Antonella lavori con adolescenti. Sono praticamente è un sì, estratto di certo. del pensiero Aleph che lei Certo. porta con Sì. questi E ragazzi e dice che funziona molto bene. adesso noi citiamo persone che ci vengono in mente per caso in questo momento, ma Sì. anch'io ne so parecchie altre, ecco, se basta che ci rifletto un po', e ce n'è proprio tante. Ancora l'altro giorno eravamo qui con la Valentina, con Chiara, beh, questi la conoscono tutti, Altro ma che. insomma, e anche con Carlo, e abbiamo parlato dell'educazione dei bambini, applicando i principi Aleph, quindi dell'antipotere, del non utilizzo del potere, cioè siamo andati al nocciolo delle cose. Allora, questo lavoro qua per me è quello che veramente mi fa capire che stiamo creando qualcosa di veramente, in cui io credo totalmente, è questo. Allora, adesso abbiamo le idee, abbiamo anche coloro che stanno lontani, come Massimo Valente che sta in Africa, Mozambico, Sudan, altri, insomma, voglio dire che hanno tutta questa grande capacità organizzativa e energia, dobbiamo dare il modo che questa fluisca in questo grande fiume, perché ce n'è bisogno oggi, ce n'è, non è solo un piacere nostro, il piacere è utile, ecco, ciò Sì, che ci piace è utile. perché proprio quello che può accadere con questo è che le persone possano venire verso questo centro, dare e ricevere, perché questo è il Questo è il sistema sistema. in cui può funzionare, si può essere felici nel farlo, imparare e poi portare a loro modo, con le loro Loro modalità, con modo, il loro loro carattere. lavoro, non è che tutti diventiamo Ma trainer Aleph, cioè non è figurati! questo, con il loro modo, come fa Carlo, come fa la Elena, riportare fuori nel mondo. E questo è la cosa fondamentale, perché se no non è che deve rimanere tutto qua, anzi, lo scopo è proprio che si possa allargare. Assolutamente questo. Benissimo. Dunque, tu hai detto una cosa secondo me molto importante. Le persone in una prima fase bisogna che in qualche modo facciano ciò che diceva Picasso, cioè, i geni copiano, i mediocri fanno in testa loro. Ecco, Picasso credo ne parlasse anche a proposito di persone come De Chirico, ma insomma, De Chirico è stata una persona che ha copiato tanto, ma non solo lui. Ecco, Bach ha copiato tutti parecchi concerti di Vivaldi quando era molto giovane, aveva quasi perso la vista con la candela lì e copiava, copiava, mica si sentiva sminuito. Allora, in passato io notavo che le persone tendono a far di testa loro troppo presto. Prima bisogna avere un periodo in cui si modella, la PNL è modellamento, modella chi ti pare, ma modella qualcuno che funziona. Pretende di fare da soli è una via senza uscita. Allora, nella prima fase, infatti, l'università libera è l'università delle idee, è questo, cioè gli scritti non dovranno essere fatti con fantasia e ognuno ama, dovranno essere rispettare la chiarezza dei testi che c'è nel sito Aleph. Il sito, io ho dedicato una vita a fare in modo di scrivere in modo comprensibile, e quindi se uno modella quel modo di scrivere facilmente ci si capisce. Come è successo con Marta l'altro giorno, io vado a prendere un pezzo sul sito e leggo, dicono, ma cos'è sta roba? Cioè, non mi ricordavo di averla scritta, è un pezzo sul potere, dico, ma quando l'avrò fatta? Dico, sto perdendo la memoria, ma com'è possibile? E poi ho scoperto che l'aveva scritta lei, quindi vuol dire che lei è entrata così tanto nello spirito da poter scrivere in modo che, come se facesse la mia firma, e non posso dire che non era mia, ecco. Poi è chiaro che Marta sta già trovando, è già pronta, Marta sta già per esempio portando dentro un contributo che sta già cambiando anche me. No? Per esempio, tutto il discorso scranio sacrale, io mi sto leggendo libri che il libro che mi ha portato lei, ho già visto un mondo infinito, abbiamo già creato dei collegamenti tra cranio sacrale e ipnosi. Quindi io ho vissuto di modellamento delle persone e sono pronto a modellare anche gli allievi che hanno qualcosa da dire subito. Quindi Aleph è un organismo vivente che cresce per modellamento reciproco. Però, diciamo, se vogliamo rimanere dentro Aleph, almeno vi chiedo una cosa, la chiarezza espositiva, la logica, e che non ci siano, ecco, dei salti poetici là dove è un saggio, perché far poesia al posto di un saggio non è la cosa migliore. Quando vuoi fare poesia, fai poesia, quando vuoi fare un saggio, fai un saggio per farti capire davvero. Questa è chiarezza. Il passo successivo quale sarà? E come dicevi te, Barbara, il passo successivo è che poi ognuno trova la sua strada dentro questo modo di pensare che è aperto a tutti. A chi vuol fare regista, a chi vuol fare qualunque cosa. Anche perché, lo dico perché, l'ho vissuto, lo sto vivendo, facendo questo percorso uno finalmente si perde tutta una serie di cose assolutamente inutili che si è portato dietro nella vita e quindi può più facilmente trovare il proprio percorso. Quindi è proprio anche un passaggio, se vogliamo, necessario affinché si trovi il proprio percorso. Se si arriva... Come è normale, insomma, con una forma di così anche di giudizio, di arroganza, no, ma io lo devo fare io, come... Non si riesce proprio a fare questo passaggio che è fondamentale. Che è un passaggio prima di, cioè, sia di umiltà, di dire non ne so, e prima lo faccio così come l'ha fatto uno che ne sa di più perché anni che lo fa. E anche mentre lo dicevi, mi veniva in mente: è anche utile. Perché tu hai una vita che ti dedichi a questo, il tuo modo di scrivere è chiaro, ma non è che sei nato così, no, no, no. Ti sei fatto un paiolo, perché quello non si dice. Una precisa scelta sta. Ecco, sei fatto un paiolo per imparare questo, cioè chi ti modella, non è che uno dice ah no, però no, no, no, ti modella una fortuna enorme, non deve farselo lui il paiolo, perché te lo sei già fatto tu, e questo non è poco. Quindi vederla in questo modo secondo me è molto utile anche a dire ah vabbè, ok, allora non è che... Sì, perché come ben... Stai dicendo, Barbara, il problema del potere è tremendo. Qualunque persona che venga vista come autorità scatena il transfer d'autorità e quindi la contrapposizione, la ribellione, perché le autorità non sono autorità in senso sano, cioè non viene da l'autorità, non, di per sé vorrebbe dire viene da augere, che vuol dire colui che accresce, no? Uh-huh. Se vai da un'autorità nel pianoforte, accresce, non ti diminuisce. Purtroppo non è così, molto spesso vai da un'autorità il quale ti soffoca. Soffoca quelle che sono le tue potenzialità, perché viene usata in modo sadico l'autorità. Ecco. Ora, in Aleph dobbiamo garantire il non esercizio del potere e dominio, e quindi l'autorità, colui che è autorità, ha un compito, ha un servizio, è quello di aiutare le persone a crescere, mettendo al servizio quello che ha appreso. E naturalmente questo non è sufficiente, deve mettersi al servizio per facilitare nelle persone di scoprire i propri talenti, quelli che i greci chiamano la qualità interiore. Se la qualità interiore di una persona fiorisce la sua anima, e allora la persona può essere sentirsi realizzata. Se invece no, non sarà mai realizzata, sarà infelice e scontenta. E siccome in Aleph vogliamo facilitare le persone a diventare intelligenti in senso vero, intelligenti vuol dire che sono l'intelligenza è messa al servizio dell'abilità, ma l'abilità fondamentale di una persona è essere felice, sapere essere felice. Quindi un'intelligenza che non è messa al servizio della felicità è una falsa intelligenza. C'è da aggiungere che la felicità personale è impossibile senza la felicità delle persone intorno. Quindi la persona veramente intelligente non può pensare sì e basta, quello è una stupido. persona veramente intelligente pensa sempre in termini di felicità, di felicità di gruppo, di felicità collettiva, di bene comune. Quindi intelligenza vera è quella che si mette al servizio dell'abilità vera, che è quella di essere felici, non solo sé, ma le persone intorno. È la sintesi che il buddismo arriva a fare con la personalità, con la figura del Bodhisattva. Il Bodhisattva che dice: io mi dedico nella vita a liberare fino all'ultimo filo d'erba. Liberarlo da cosa? Dai condizionamenti dell'ego, da quelle strutture che fanno sì che gli esseri viventi, anziché stare bene, stiano male. Quindi qui i conti così tornano, e credo che abbiamo alle spalle una serie di maestri, perché voglio dire, ma io non marxo mica io non sono nulla, io sono semplicemente preso dai vari maestri che ho avuto la fortuna di incontrare, prima Boris Porena fortunatamente l'ho incontrato, e poi altri via via ho preso questa roba, li ho messi insieme, e naturalmente questo lavoro va continuato, se sì. Ognuno lo fa, sì che qui creeremo qualcosa di veramente grande. Sì. Il mio più grande sogno è quello di mettermi in seconda fila, in quarta fila e osservare cosa fate voi. Quello è il mio più grande sogno, non continuare a farlo io. Ogni tanto sì, ma a me piace andare platea adesso.